Il caporalato è un reato e fortunatamente abbiamo una legge che in teoria è abbastanza restrittiva ma anche sanzionatoria, e però appunto, come dicevi bene tu, il caporalato non sta più soltanto, non pertiene soltanto all'agricoltura come sembrava essere negli ultimi anni, in cui le denunce ma anche le rivolte dei lavoratori immigrati hanno fatto emergere i casi, ma vediamo che non soltanto al sud, non soltanto nell'agricoltura ma anche in tutte quelle che io nel libro descrivo come avanguardie allo sfruttamento, quindi la logistica, i servizi pubblici esternalizzati, i call center. Abbiamo una pervasività di questo tipo di fenomeno e il tratto comune, bisogna dirlo, di quello che di questi eventi è fondamentalmente il ciclo di appalti e di subappalti che si susseguono e che sempre di più in qualche modo aggrediscono sia questi settori ma in generale l'economia sempre più frantumata. Quindi insomma l'appalto è uno strumento per riuscire in un qualche modo a inserire anche un risparmio che avviene sulla pelle del lavoratore e quindi è così, no? Che in un certo senso è lo stesso appalto che genera queste dinamiche? È più che l'appalto in sé, il susseguirsi di appalti e subappalti che terminano di solito con queste cooperative spurie che di fatto sono intermediazione illecita di mano d'opera e quindi caporalato in molti casi, che avvengono appunto su un ribasso, con l'obiettivo di un ribasso del costo del lavoro, ma soprattutto la deresponsabilizzazione delle imprese committenti, perché su questo punto noi ormai andiamo a focalizzarci ovviamente sulle cooperative, anche diciamo se da un lato abbiamo la legge sul caporalato, dall'altro il Jobs Act che di fatto depenalizza questo tipo di reato, ma dall'altro dobbiamo anche guardare a quelle che sono le imprese, le aziende, le società committenti che non possono non sapere a chi danno gli appalti, non si assume nessuna responsabilità e qui la responsabilità appunto non è soltanto, come si diceva durante il periodo del referendum, la solidarietà in caso di mancato pagamento del TFR, dei salari, degli stipendi dei lavoratori, ma è proprio a chi e a quali soggetti economici si affidano pezzi della produzione e soprattutto le relazioni industriali, quindi quelle che attengono di fatto al rapporto con i lavoratori. Quindi insomma il committente non può disinteressarsi una volta che ha appaltato un ramo di impresa, insomma un settore della sua impresa, non può disinteressarsene. Diciamo che più che non disinteressarsene dopo, deve interessarsene molto prima, cioè quando decide innanzitutto di esternalizzare, chiediamoci il perché si esternalizza, e questo è uno dei punti che dovremmo rimettere all'ordine del giorno del dibattito politico, e poi sicuramente quando appunto decide che gli conviene fare un appalto e perché, quali sono i soggetti con cui interagisce. Dopodiché, dall'altro lato, abbiamo sempre che il ruolo ispettivo, che da un lato ci ha dato i risvolti, i numeri di questo in qualche modo incremento di questa specie di reato, ma dall'altro sappiamo che i tagli all'ispettorato del lavoro, le riorganizzazioni fanno sì che di fatto i controlli sono abbastanza scarsi e quindi diciamo soltanto in alcuni casi, tipo quello enorme di cui hai parlato a inizio programma, vengono alla luce. Ecco, parlavamo delle COP spurie qualche giorno fa, insomma Poletti, ma già anche insomma prima di Natale, Poletti aveva annunciato più controlli e anche la Lega delle Cooperative è d'accordo, perché ovviamente è una concorrenza anche sleale, ma tu citavi prima il Jobs Act, come ricordavi ha abolito la somministrazione fraudolenta di manodopera ed è penalizzato la somministrazione irregolare, questo ad esempio nell'avvertenza Castelfrigo, nel Modenese, nel comparto del lavoro delle carni, è stata individuata ad esempio dalla Fly CGL proprio come un problema, cioè il Jobs Act ha creato un problema e ha permesso anche che certi fenomeni si manifestassero. Sì, esatto, quando abbiamo contraddizioni tra le norme poi appunto non si sa quale bisogna applicare, perché da un lato puoi applicare il Jobs Act e dall'altro speri sempre in un controllo così che tu possa applicare poi le sanzioni, la confisca se vogliamo delle cooperative, proprio come dice la legge sul caporalato, quello diventa un problema. Il caso appunto della Castelfrigo poi ci ricorda anche un'altra cosa: dovremmo cominciare ad abolire la possibilità per i sindacati di farsi sindacati dei padroni, come ha fatto la CISL, che di fatto ha firmato un accordo per l'assunzione di 52 lavoratori, che diciamo la cui condizione era il non aver protestato e scioperato nell'anno precedente, quindi escludendo non soltanto, in qualche modo facendo finta di non vedere la barbarie che si è invece concretizzata sugli altri 127 lavoratori ancora in picchetto, e dall'altro diciamo agendo in qualche modo verso, no, una frantumazione disarticolazione sempre più forte tra i lavoratori stessi, che poi ovviamente vengono messi gli uni contro gli altri in una condizione di bisogno da cui partono tutti. Beh, insomma, i sindacati gialli esistono da molto tempo. Ma a questo punto come si può intervenire sul tema? Cioè, serve un'omogeneità tra le norme? Da un lato bisognerebbe rivedere quali sono i pezzi, i processi da esternalizzare, e una volta appunto che si applica l'appalto, il sistema di appalto, sicuramente reintrodurre il reato penale nella somministrazione illecita di manodopera su tutti i settori, su tutte le fattispecie, e quindi andare a abolire pezzi di Jobs Act, e dall'altro però rendere completamente responsabili i committenti, cioè l'azienda madre che appalta, no, che esternalizza su questi processi e queste eventualità, altrimenti appunto in qualche modo non si arriva mai alla fonte e alla radice del problema.